23. Malintesi. Non erano trascorsi neanche 5 minuti da che Margaret se n'era andata, quando Thornton entrò tutto acceso in viso. Non sono potuto tornare prima. Il soprintendente voleva. Lei dov'è? Si guardò intorno nella sala da pranzo e poi quasi si accanì contro sua madre, che stava tranquillamente rimettendo al loro posto i mobili che erano stati spostati, e non rispose subito. Dov'è la signorina Hale? Domandò di nuovo. È andata a casa? Rispose lei piuttosto seccamente. Andata a casa? Sì, stava molto meglio. A dire il vero, non credo che fosse una ferita molto grave. È che certa gente sviene per un non nulla. Mi dispiace che sia andata a casa, disse lui girando per la stanza agitato. Non poteva essere nelle condizioni di farlo. Ha detto che lo era, e l'ha detto anche il signor Lowe. Sono andata a chiamarlo io stessa. Oh, grazie, madre! Si fermò e fece per porgerle la mano per ringraziarla, ma lei non si accorse del gesto. Che cosa hai fatto con gli irlandesi? Li ho mandati al Dragon a mangiare un pasto decente, poveretti, e poi fortunatamente ho trovato padre Grady. Gli ho chiesto di parlare con loro per dissuaderli dall'andarsene tutti insieme. Com'è andata a casa la signorina Hale? Non era sicuramente in grado di camminare. Ha preso una carrozza. Tutto è stato fatto come si deve, persino per il pagamento. Ma parliamo d'altro, ha già dato abbastanza disturbo. Ma come? Se non fosse stato per lei, non so dove sarei. Oh, sei diventato così vulnerabile da dover essere difeso da una ragazza? Chiese la signora Thornton con una certa arroganza. Lui arrossì. Non sono molte le ragazze che si sarebbero prese colpi destinati a me. E colpi intenzionati a far male, per giunta. Oh, una ragazza innamorata è capace di tutto, rispose la signora Thornton brevemente. Madre! Fece un passo in avanti e si fermò. Faceva fatica a respirare per tutta quella foga. Lei era sorpresa per l'evidente sforzo che faceva il figlio per mantenere la calma. Non era sicura di quale fosse la natura delle emozioni che gli aveva suscitato. Soltanto la loro violenza era chiara. Si trattava di rabbia? Gli brillavano gli occhi, gli si gonfiava il petto, il suo respiro era affannoso, era un misto di gioia, rabbia, orgoglio, di piacevole sorpresa, di dubbio impaziente. Lei non riusciva proprio a interpretarlo, eppure la faceva sentire a disagio, poiché la presenza di tutti quei sentimenti intensi insieme, la cui origine è sconosciuta e difficile da comprendere, fa sempre questo effetto. Andò verso la credenza, aprì un cassetto e tirò fuori un panno per la polvere che teneva lì a portata di mano. Aveva notato una goccia di acqua di colonia sopra il lucido bracciolo del divano e istintivamente cercò di pulirla. Ma rimase girata, dando la schiena al figlio molto più a lungo di quanto fosse necessario, e quando parlò la sua voce sembrò insolita e forzata. Hai preso dei provvedimenti contro i ribelli, suppongo. Non tollererai più alcuna violenza, vero? Dov'era la polizia? Non c'è mai quando serve. E invece ne ho visti tre o quattro di poliziotti quando le uscite sono state prese d'assalto, che facevano a botte e colpivano nella giusta maniera, e altri sono arrivati correndo proprio quando il cortile era stato quasi sgomberato. Qualcuno lo avrei potuto consegnare alla polizia se fossi stato allerta, ma non sarà difficile, ci sono tante persone che possono identificarli. Ma non torneranno stanotte? Farò in modo che ci siano abbastanza guardie per tutti gli edifici. Ho appuntamento con il capitano Hanbury tra mezz'ora alla stazione. Oh, dovresti prendere un po' di tè prima. Del tè? Sì, penso di doverlo prendere. Sono le 6:30, potrei star fuori per un bel po'. Non aspettatemi alzata, madre. E davvero ti aspetti che io vada a letto prima di averti visto tornare sano e salvo? Beh, forse no. Esitò per un momento, ma se avrò tempo andrò dalle parti di Crampton dopo aver sistemato le cose con la polizia e aver visto Hamper e Clarkson. I loro occhi si incontrarono e si fissarono intensamente per un minuto. Dopodiché lei domandò: E cosa vai a fare dalle parti di Crampton? Beh, ma a chiedere come sta la signorina Hale. Manderò qualcuno. Williams deve portarle il letto ad acqua che era venuta a chiedere e si informerà lui della sua salute. Devo andarci di persona. Non soltanto per chiedere come sta la signorina Hale, vero? No, non solo per quello. Voglio ringraziarla per essersi messa tra me e la folla. Ma che cosa ti ha spinto ad andare di sotto? È stato come mettere la testa tra le fauci del leone. Le lanciò un'occhiata tagliente, vide che non sapeva nulla di quello che era successo tra lui e Margaret in salotto e rispose con un'altra domanda. Avete paura di restare senza di me finché non riesco a trovare qualche poliziotto? O è meglio se mandiamo Williams a cercarli subito, così riescono a essere qui per quando avremo finito di prendere il tè? Non c'è tempo da perdere, devo uscire tra un quarto d'ora. La signora Thornton lasciò la stanza. I domestici si meravigliarono delle sue indicazioni, solitamente così dettagliate e decise e ora confuse e incerte. Il signor Thornton rimase nella sala da pranzo sforzandosi di pensare alla faccenda che doveva sbrigare con la polizia, ma in realtà il pensiero andava a Margaret. Tutto sembrava offuscato e vago, eccetto all'infuori, accanto alla sensazione delle sue braccia attorno al collo, il tenero abbraccio che gli faceva tornare il rossore sulle guance. Ogni volta che ci pensava. Il momento del tè sarebbe stato molto silenzioso se Fanny non avesse fatto per tutto il tempo la descrizione delle sue emozioni. Oh, quanta paura aveva avuto! E a un certo punto aveva pensato che se ne fossero andati e alla fine si era sentita male da svenire e tremare da capo a piedi. Bene, ne ho abbastanza adesso, disse suo fratello alzandosi da tavola. Mi è bastata la realtà. Stava per uscire dalla stanza quando sua madre lo fermò, posandogli una mano sul braccio. «Torna qui prima di andare dagli Hale», disse con voce agitata e cupa. «Lo so io, lo so», disse Fanny tra sé e sé. «Perché? È troppo tardi per disturbarli?» «John, torna da me, almeno per questa sera. Sarà tardi per la signora Hale, ma non è per questo. Ci andrai domani. Torna a casa stasera, John». Non aveva quasi mai implorato il figlio in vita sua, era troppo orgogliosa per farlo, ma mai aveva implorato invano. Bene, tornerò direttamente qui dopo aver sbrigato i miei affari. Siete sicura che vi informerete di come stanno, di come sta? Durante l'assenza del figlio, la signora Thornton non fu affatto una compagnia molto loquace per Fanny e nemmeno una buona ascoltatrice. Ma quando lui tornò aveva occhi e orecchie desiderosi di vedere e di sentire tutti i dettagli che era in grado di darle in merito ai provvedimenti che aveva preso per mettere al sicuro se stesso e coloro che aveva deciso di assumere da un altro oltraggio simile a quello di quel giorno. Aveva ben chiaro il suo obiettivo. Punizioni e sofferenze erano le naturali conseguenze per coloro che avevano preso parte alla rivolta. Tutto questo era necessario finché la proprietà fosse protetta e affinché la volontà del padrone raggiungesse il suo scopo come una spada precisa e affilata. Madre, sapete cosa devo dire alla signorina Hale domani? La domanda le piombò addosso all'improvviso in un momento di silenzio nel quale almeno lei aveva dimenticato Margaret. Lo guardò. Sì, lo so, non puoi fare altrimenti. Fare altrimenti? Non vi capisco. Beh, intendo dire che dopo che si è lasciata sopraffare dai suoi sentimenti in quel modo, ti considero moralmente obbligato a... Moralmente obbligato? Ripeté lui indignato. Oh, temo che l'onore non abbia nulla a che fare con questo. Sopraffare dai suoi sentimenti. Ma quali sentimenti intendete? Oh no, John, non serve che ti arrabbi. Non è corsa giù aggrappandosi a te per salvarti dal pericolo. Sì, lo ha fatto, disse. Tuttavia, madre, continuò fermandosi per un attimo proprio davanti a lei. Non oso sperare. Non sono mai stato insicuro in passato, ma stento a credere che una simile creatura possa interessarsi a me. Non essere sciocco, John. Ah, una simile creatura. Beh, sembra che tu stia parlando della figlia di un duca. E quale altra prova vorresti avere, mi chiedo, del suo interesse per te? Posso ben credere che abbia combattuto contro quel suo modo aristocratico di vedere le cose, ma la apprezzo soprattutto perché ci ha visto bene, alla fine. Mi costa moltissimo dirlo, disse la signora Thornton con un debole sorriso e con le lacrime agli occhi, perché da stasera io non sarò più al primo posto. Era per averti per me, tutto per me, ancora qualche ora che ti ho pregato di non andare da lei. Fino a domani. Madre mia adorata! Eppure l'amore è egoista e in un attimo lui ritornò alle sue speranze e alle sue paure in un modo che disegnò sul cuore della signora Thornton un'ombra fredda che lentamente avanzava. Ma so che non è interessata a me. Mi inginocchierò ai suoi piedi, devo. Lo farei anche se ci fosse soltanto una possibilità su 1.000 o su 1.000.000. Devo farlo. Oh, non temere. disse sua madre, reprimendo sia la personale mortificazione per la scarsa considerazione che lui aveva avuto per quella rara manifestazione di sentimento materno, sia il morso della gelosia che svelava l'intensità del suo amore ignorato. Non temere, disse con freddezza, per quanto riguarda l'amore, può essere degna di te. Le sarà costata una gran fatica mettere da parte il suo orgoglio. Non aver paura, John, disse, dandogli un bacio nell'augurargli la buonanotte. E con incedere lento e maestoso uscì dalla stanza. Ma quando fu da sola in camera sua, chiuse a chiave la porta e si sedette, piangendo lacrime inconsuete. Margaret, pallida in volto, entrò nella stanza dove il padre e la madre erano ancora seduti a chiacchierare a voce bassa. Arrivò loro molto vicino prima di sentirsi sicura di riuscire a parlare. La signora Thornton manderà il letto ad acqua, mamma. Oh tesoro, sembri così stanca, fa molto caldo, Margaret? Oh, moltissimo, ed è difficoltoso camminare per strada con lo sciopero. Margaret riprese il suo colorito vivido e luminoso di sempre, ma svanì subito. C'è un messaggio da parte di Bessie Higgins che chiede di andare da lei, disse la signora Hale, ma mi sembri davvero, davvero troppo stanca. Sì, disse Margaret, sono stanca, non posso andare. Era silenziosa e tremava mentre preparava il tè. Era sollevata nel vedere che il padre era così impegnato con la madre da non accorgersi del suo aspetto, persino dopo che sua madre si era messa a letto. Non volle separarsi da lei e decise di leggerle qualcosa per farla addormentare. E Margaret rimase sola. Adesso ci penserò, adesso ricorderò tutto. Prima non potevo, non osavo. Sedeva immobile sulla sua poltrona, le mani incrociate sulle ginocchia, le labbra strette, gli occhi fissi come se avesse una visione. Fece un profondo respiro. Io che odio le scenate, io che ho disprezzato le persone perché avevano fatto mostra delle loro emozioni, che ho pensato mancasse loro l'autocontrollo, sono scesa e non sono riuscita a trattenermi e mi sono buttata in quel melé, in quella mischia, come una sciocca romantica. E cosa ho ottenuto? Se ne sarebbero andati anche senza di me, suppongo. Ma il suo bel ragionamento stava tralasciando la deduzione logica, perché un istante dopo cadde. No, forse non lo avrebbero fatto. Qualcosa di buono l'ho fatto, ma cosa mi è preso per difendere quell'uomo come se fosse un bambino inerme? Ah, disse stringendo forte le mani. Non c'è da meravigliarsi che quelle persone abbiano pensato che fossi innamorata di lui dopo essermi comportata in un modo così disdicevole. Io, innamorata. E di lui, poi. Le sue guance smorte diventarono una fiamma di fuoco. Improvvisamente si coprì il volto con le mani e quando le tolse, i suoi palmi erano bagnati di lacrime bollenti. Oh, quanto devo essere caduta in basso se si permettono di parlare così di me. Non avrei potuto essere così coraggiosa per nessun altro. Lo sono stata per lui, proprio perché mi è totalmente indifferente, se non addirittura odioso. La cosa che mi preoccupava di più era che lo scontro fosse onesto. Sono in grado di giudicare quando uno scontro è onesto e non lo era, disse con impeto. Non era onesto che fosse in casa al sicuro in attesa dell'arrivo dei soldati che magari avrebbero preso in trappola quelle povere creature impazzite senza che lui avesse fatto alcun tentativo per farli ragionare. E d'altro canto, che la folla gli si sia scagliata contro minacciandolo è stato peggio che disonesto. Ah, lo rifarei, che dicano di me quello che vogliono, se ho impedito che lui fosse colpito. Se ho impedito un crudele gesto di rabbia che altrimenti poteva essere commesso, ho fatto solo il mio dovere di donna. Che insultino pure la mia dignità di donna quanto vogliono, io cammino pura davanti al divino. Sollevò lo sguardo e una pace solenne parve di scenderle in viso, placandolo, fino a farlo diventare più immobile di quello di una statua di marmo. Entrò Dixon. Con il vostro permesso, signorina Margaret, hanno portato il letto ad acqua da parte della signora Thornton. Per stasera è troppo tardi, temo, perché la padrona si è quasi addormentata, ma per domani sarà proprio perfetto. Sicuramente, disse Margaret. Mandale i nostri ringraziamenti. Dixon uscì un attimo dalla stanza. Con il vostro permesso, signorina Margaret. Il domestico che lo ha consegnato dice di dover chiedere soprattutto come state voi. Penso che voglia intendere la padrona, ma dice che le ultime parole del signor Thornton sono state di chiedere soprattutto come sta la signorina Hale. Io? Disse Margaret tirandosi su. Sto abbastanza bene. Digli che sto benissimo. Ma aveva la pelle di un colore mortale, bianca come il suo fazzoletto, e le faceva molto male la testa. Poi entrò il signor Hale. Aveva lasciato sua moglie che dormiva e, come Margaret intuì, voleva che lei gli raccontasse qualcosa di divertente e interessante. Con tenera pazienza sopportò tutto il suo dolore senza neanche un lamento. Rovistò tra innumerevoli piccoli argomenti di conversazione, parlò di tutto, senza mai nominare neanche una volta la sommossa. Si sentiva male a solo pensarci. Beh, buonanotte, Margaret cara. Con ogni probabilità anche la mia sarà una buonanotte. E tu mi sembri troppo stanca per vegliarla. Chiamerò Dixon se tua madre ha bisogno di qualcosa. Vai a riposare e dormi come un ghiro. Sono certo che ne hai bisogno, povera bambina mia. Buonanotte, papà. Lasciò che il suo colorito si spegnesse del tutto insieme al sorriso forzato e che gli occhi perdessero sensibilità per l'acuto dolore. Liberò la forza di volontà dal suo difficile compito fino all'indomani mattina. Si sarebbe potuta sentire malata e stanca. Rimase distesa, senza mai girarsi. Muovere una mano o un piede o magari persino un dito avrebbe richiesto uno sforzo che andava oltre la capacità della volontà e del corpo. Era così sfinita, così stordita, che pensava di non riuscire a chiudere occhio. I suoi febbricitanti pensieri attraversarono più volte il confine tra il sonno e la veglia, mantenendo la loro miserevole identità. Non poteva rimanere sola, affranta, senza forze, com'era. Una nube di volti giù dal basso la guardava. E l'impressione che le davano non era di rabbia fiera e vivida o di pericolo per la sua persona, ma le recavano un profondo senso di vergogna, poiché sarebbe stata sulla bocca di tutti. Un senso di vergogna così intenso che avrebbe voluto scavare una fossa nella terra per nascondervisi. Eppure non riusciva a sfuggire lo sguardo truce della miriade di occhi che la fissavano. 24. Malintesi chiariti. La mattina seguente Margaret si tirò su dal letto, sollevata che la notte fosse passata, non proprio rinvigorita, ma riposata. La vita in casa era proseguita tranquilla. Sua madre si era svegliata soltanto una volta. Nell'aria calda si levava una leggera brezza e, sebbene non ci fossero alberi a mostrare quel moto giocoso delle foglie agitate dal vento, Margaret sapeva che da qualche parte, sul ciglio della strada, tra i radi arbusti o nei fitti boschi verdi, c'era un gradevole mormorio danzante, un suono che arriva impetuoso e poi precipita, e il cui solo pensiero era l'eco di una lontana gioia nel cuore. Era seduta con il suo lavoro di cucito nella camera della signora Hale. Non appena sua madre si fosse ripresa da quel torpore mattutino, l'avrebbe aiutata a vestirsi. Dopo pranzo sarebbe andata a trovare Bessie Higgins. Avrebbe bandito tutti i ricordi della famiglia Thornton. Non c'era bisogno di pensare a loro finché non se li fosse trovata davanti in carne e ossa. Tuttavia, come naturale, sforzandosi di non pensarli, non faceva altro che ritrovarseli davanti con una forza ancora maggiore. E di tanto in tanto arrivava una vampata di calore che spargeva un po' di colore sul suo volto pallido, come un raggio di sole che, infilandosi tra le nuvole di pioggia, si muove scattante sopra il mare. Dixon aprì molto piano la porta e in punta di piedi si avvicinò a Margaret seduta vicino alla finestra oscurata. E il signor Thornton, signorina Margaret, è in salotto. Margaret lasciò cadere il suo lavoro. Ha chiesto di me? Non è tornato, papà? Ha chiesto di voi, signorina, il padrone è fuori. Oh, bene, arrivo, disse Margaret con calma, ma stranamente indugiava. Il signor Thornton stava in piedi vicino a una finestra, dando le spalle alla porta, apparentemente interessato a osservare qualcosa per strada, ma in verità era teso, aveva il cuore in tumulto al pensiero che lei stesse arrivando. Non poteva dimenticare la sensazione delle sue braccia attorno al collo. Si sentiva irrequieto come allora, ma ora il ricordo di quell'abbraccio in sua difesa sembrava farlo fremere di nuovo, sembrava sciogliere ogni proposito. Tutto il suo autocontrollo come cera al fuoco. Tremava all'idea di doverle andare incontro con le braccia tese, supplicandole in silenzio di andare a rifugiarsi lì, come aveva fatto il giorno prima, quando lui l'aveva completamente ignorata, ma non sarebbe mai più stata ignorata. Il suo cuore palpitava veloce e con violenza. Nonostante fosse un uomo forte, vacillava al pensiero di ciò che avrebbe dovuto dire e di come sarebbe stato accolto. Magari si sarebbe lasciata andare, sarebbe arrossita e sarebbe corsa tra le sue braccia come fossero la sua casa e il suo rifugio. Per un attimo si infiammò al pensiero che avrebbe potuto comportarsi così e un attimo dopo temette un energico rifiuto, all'idea del quale il suo futuro appassiva come un fiore e bandì questa possibilità. Venne ridestato dalla sensazione che ci fosse qualcuno nella stanza. Si voltò. Era entrata così piano che non se n'era neanche accorto. Alle sue orecchie distratte i rumori della strada arrivavano più distinti dei lenti movimenti di lei nel suo abito di soffice mussolina. Margaret restò in piedi accanto al tavolo senza invitarlo ad accomodarsi. Le palpebre le coprivano per metà gli occhi, teneva i denti stretti ma non troppo, le labbra dischiuse lasciavano intravedere la loro linea bianca. Respiri lenti e profondi le dilatavano le belle narici sottili, quello era l'unico movimento visibile sul suo volto. La grana fine della pelle, l'ovale del viso, i contorni della bocca carnosa che agli angoli formavano profonde fossette, tutto era tenue e smorzato quel giorno. La perdita del colorito sano e naturale che aveva di solito era resa ancora più evidente dalla pesante ombra dei suoi capelli neri fatti scendere sulle tempie per nascondere qualsiasi traccia del colpo. Teneva la testa un po' all'indietro, nel suo solito modo orgoglioso, malgrado gli occhi abbassati. Le lunghe braccia pendevano immobili lungo i fianchi. Nell'insieme assomigliava a una carcerata, accusata ingiustamente di un crimine che aborriva e disprezzava e per il quale era troppo indignata per giustificarsi. Il signor Thornton fece alcuni frettolosi passi avanti, si ricompose e andò con fermezza verso la porta che lei aveva lasciata aperta e la richiuse. Dopodiché tornò indietro e restò in piedi di fronte a lei per un attimo, per coglierne l'intera bellezza prima di osare disturbarla e magari offenderla con quello che aveva da dire. Signorina Hale, sono stato molto ingrato ieri. Oh, non avete nulla per cui essere grato, disse lei, sollevando lo sguardo e fissandolo dritto negli occhi. Volete dire, suppongo, che vi ritenete in dovere di ringraziarmi per quello che ho fatto? Suo malgrado, a dispetto della sua rabbia, un forte rossore le divampò in viso, fino a bruciarle negli occhi che, ciò nonostante, rimasero seri e fermi. È stato soltanto un gesto istintivo. Qualsiasi donna avrebbe fatto esattamente lo stesso. Tutte noi, al momento del pericolo, percepiamo la sacralità del nostro sesso come un privilegio. Piuttosto sono io, disse frettolosamente, che devo porgervi le mie scuse per avervi detto parole sconsiderate, spingendovi a gettarvi nel pericolo. Non sono state le vostre parole, è stata la loro sincerità e il modo pungente con cui le avete pronunciate. Ma non fatemi cambiare discorso e non rifuggite la mia profonda gratitudine, il mio... Ora... Era arrivato al limite. Non avrebbe parlato in preda alla passione, avrebbe pesato ogni parola. Era questo che voleva e la sua volontà trionfava sempre. Non terminò la frase. Non cerco di rifuggire proprio nulla, disse lei. Dico semplicemente che non mi dovete nessuna gratitudine e posso anche aggiungere che ogni vostra parola di riconoscenza sarà un dispiacere per me, perché non credo di meritarmela. Comunque, se può liberarvi da un vostro presunto obbligo, continuate. Non voglio essere sollevato da nessun obbligo, disse, incoraggiato dalla calma di Margaret. Presunto o non presunto, non mi pongo neanche la domanda. Io scelgo di credere che vi devo la vita. Sì, sorridete pure, e pensate che sia un'esagerazione se volete. Io lo credo perché aggiunge un valore a quella vita, pensare che... Oh, signorina Hale, continuò abbassando il tono di voce fino a raggiungere una passionalità così teneramente intensa da farle venire i brividi e tremare davanti a lui. Pensare che il destino ha voluto che d'ora in poi, ogni volta che esulterò nella mia esistenza, potrò dire a me stesso: Tutta questa felicità nella vita, tutto questo sincero orgoglio di fare il mio lavoro nel mondo, tutta questa voglia di vivere, li devo a lei. E ciò raddoppia la felicità, fa risplendere l'orgoglio, rende palese il senso dell'esistenza, a tal punto da non riuscire a capire se si tratta di dolore o di piacere pensare che devo la vita a qualcuno. No, ascoltate, dovete ascoltare, disse, facendo qualche deciso passo in avanti. A qualcuno che amo, in un modo in cui non credo un uomo abbia mai amato una donna. Le teneva la mano stretta nella sua, respirava affannosamente mentre si preparava ad ascoltare la risposta. Le lasciò la mano con indignazione quando sentì il suo tono di ghiaccio, perché era davvero, davvero di ghiaccio, sebbene le sue parole stentassero a venir fuori come se non riuscisse a trovarne. Il vostro modo di parlare mi sconvolge. È blasfemo. Non posso farci nulla se questa è la prima cosa che provo. Magari potrei sbagliarmi se ho capito il genere di sentimento che descrivete. Non voglio contrariarvi e oltretutto dobbiamo parlare piano perché mia madre dorme, ma il vostro atteggiamento mi offende. Come? Vi offende? Esclamò. Sono invece io lo sventurato. Sì, disse lei recuperando la sua dignità. Mi sento offesa e penso anche a ragione. Sembrate credere che la mia condotta di ieri. Di nuovo un rossore intenso sul viso, ma questa volta gli occhi le si accendevano di indignazione più che di vergogna. Sia dovuta a qualcosa di personale tra voi e me, e che avete il diritto di venire a ringraziarmi per questo invece di capire come avrebbe fatto un gentiluomo. Sì, un gentiluomo, ripeté alludendo alla loro precedente conversazione sul termine, che qualsiasi donna degna di essere definita tale si sarebbe fatta avanti per proteggere un uomo da solo in balia della violenza di molti. Certa che la sua incapacità a difendersi sarebbe stata rispettata. E al gentiluomo tratto così in salvo non viene concesso neanche il conforto di poter dire grazie, sbottò lui con tono sprezzante. Io sono un uomo, rivendico il diritto di esprimere i miei sentimenti. E io ho rispettato il diritto. Dico semplicemente che mi avete dato un dispiacere insistendo sulla questione, rispose con orgoglio. Ma sembra che abbiate immaginato che io non sia stata guidata dal semplice istinto femminile, ma. E a quel punto quelle lacrime appassionate che aveva trattenuto a lungo, lottando strenuamente contro se stessa, raggiunsero gli occhi e le strozzarono la voce. Ma che sia stata spinta da qualche particolare sentimento per voi, voi! Invece non c'era uomo, non c'era alcun povero disperato tra tutta quella folla per il quale non avrei provato più compassione, per il quale non avrei sentito il dovere di fare quel poco che potevo con più sentimento. Potete continuare, signorina Hale. Sono perfettamente conscio di tutte le vostre mal collocate simpatie. Ora ne sono convinto che sia stata soltanto la vostra innata pietà per gli oppressi. Sì, anch'io posso essere un oppresso, sebbene sia un padrone. A farvi agire in quel modo così nobile, so che mi disprezzate, permettetemi di dire che è perché non mi capite. Non mi interessa capire, rispose lei appoggiandosi al tavolo per non cadere, perché lo riteneva crudele, come difatti era, ed era senza forze per l'indignazione. No, lo vedo, siete sleale e ingiusta. Margaret serrò le labbra. Non avrebbe parlato per rispondere a tali accuse. Tuttavia. Nonostante ciò, nonostante tutte le sue parole di rabbia, avrebbe potuto anche gettarsi ai piedi di Margaret e baciare l'orlo della sua veste. Lei non parlò, non si mosse. Lacrime di orgoglio ferito scendevano calde e veloci. Lui aspettò un attimo, desiderando che dicesse qualcosa, anche un insulto, al quale avrebbe potuto replicare, ma lei restò muta. Thornton prese il suo cappello. Ancora una cosa. Essere amata da me sembra essere per voi come un'onta. Non potete evitarlo, anche se lo volessi non potrei togliervi quell'onta e non lo farei neanche se potessi. Non ho mai amato una donna prima. La mia vita era stata troppo impegnata, la mente troppo assorta in altri pensieri. Ora amo e amerò, ma non abbiate paura, non lo mostrerò apertamente. Non ho paura, rispose Margaret, mettendosi ben dritta in piedi. Fino ad oggi nessuno aveva mai osato essere così impertinente e non accadrà ancora. Tuttavia, signor Thornton, siete stato molto gentile con mio padre, disse cambiando completamente tono e usando una dolcezza più femminile. Non portiamoci rancore, vi prego. Lui non fece caso a quelle parole. Continuò a lisciare la stoffa del suo cappello con la manica del cappotto per quasi un minuto e poi rifiutando la mano che lei gli offriva e facendo finta di non vedere lo sguardo seriamente rammaricato di lei, si girò bruscamente e lasciò la stanza. Margaret lanciò una rapida occhiata al suo viso prima che si voltasse. Una volta che se ne fu andato, pensò di aver visto un luccichio come di lacrime ferme nei suoi occhi, e questo trasformò la sua superba ripugnanza in qualcosa di diverso e di più tenero, se non addirittura di doloroso, quasi in un rimprovero per aver mortificato qualcuno in quel modo. «Ma cosa potevo farci?» si domandò. «Non mi è mai piaciuto! Mi sono comportata educatamente, ma non mi sono preoccupata di nascondere la mia indifferenza. In realtà non ho mai pensato alle conseguenze per me o per lui, quindi le mie maniere devono aver mostrato la verità. Deve aver frainteso quello che è successo ieri, ma questa è colpa sua, non mia. Lo rifarei di nuovo, se ce ne fosse bisogno, nonostante mi conduca a tutta questa vergogna e a tutte queste difficoltà».